3, 2, 1, via! Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima puntata dell'Incredulo con Elisa Pasquini e... E Giorgio, perché l'incredulo sono io. Ah, cara Elisa, non mi convincerai, non ce la farai, perché queste panzane da New Age con me non attaccano. Staremo a vedere, staremo proprio a vedere. Nella puntata di oggi parleremo di un argomento molto noto a quasi tutti. Vediamo se lo conosci anche te, caro Giorgio, i fiori di... Bach, o come tutti li chiamano, fiori di Bach. Ma secondo me la pronuncia più corretta è fiori di Bach, perché il compositore era anche un botanico. È stato lui che si è inventato questa storiella dei fiori? Purtroppo per te no. Il dottor Edward Bach era un medico inglese vissuto fra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, quindi era un medico e non un compositore. E poi piano piano si è innamorato e ha scoperto questi fiori. Ma Elisa, questi fiori di cui tutti parlano, ma che cosa sono? Sono i fiori di quale pianta? Sono i fiori di quale fiore? Che ne so? Sono i fiori di 37 piante, a noi abbastanza note alcune, perché c'è l'olivo, la vigna, oppure l'erica, il fiori dell'arice, della mela, e poi c'è un'essenza che invece è estratta da una sorgente del Galles. Questi fiori di Bach sono fiori non di una pianta, la pianta di Bach o di Bach, ma sono fiori di tante piante. E allora perché si chiamano fiori di Bach? Perché è lui che lì ha, diciamo, ha scoperto questo nuovo tipo di uso dei fiori. Prima c'era la fitoterapia, quindi l'estrazione proprio delle proprietà della pianta, mentre la floriterapia, che è stata inventata dal dottor Edward Bach, si basa sull'estrazione delle essenze energetiche dei fiori. Quindi dentro la boccetta non troverai fiori macerati o disciolti, ma troverai quello che rimane del loro potere energetico. Energetico in che senso, Elisa? È praticamente quello che c'è all'interno di una boccettina di essenza madre, che è quelle che vengono acquistate in erboristeria, ha all'interno acqua in cui sono stati dentro i fiori o a macerare o a bollire, a macerare sotto il sole, e del brandy per conservarli. Quando si parla di energia si va a entrare in un mondo un po' magico, o spiegato dalla fisica quantistica, che è il fatto che le essenze suonano con noi con dei campi elettromagnetici, quindi quello che andiamo a ingerire è il campo elettromagnetico del fiore. Ma pensate, incredibile! E che tipo di proprietà hanno? Cioè, chi li prende? Che tipo di benefici riscontra? I fiori di Bach, a differenza magari di altri tipi di floriterapia, lavorano solo sul livello emozionale. Quindi se uno ha un problema, non lo so, di paura, può prendere il fiore per le paure e va a alleviare il suo senso di malessere legato a queste paure. Se è una persona insicura, quindi che prova insicurezza, può prendere il fiore dell'insicurezza e va a dare un po' più di sicurezza. A differenza dell'omeopatia, che te ingerisci ciò di cui stai male per rafforzarti dentro, la floriterapia va a tirare fuori la bellezza e quindi la parte positiva che c'è in te. Quindi in sé per sé non hanno dei benefici a livello fisico. È chiaro che se uno soffre di sintomatologie psicosomatiche, quindi non so, ha mal di stomaco dovuto alla paura, prendendo il fiore per la paura, può darsi, ma non c'è niente di scritto, che gli passi anche il mal di stomaco. Quindi lavorano sul riequilibrio emozionale. Ma e quindi... Elisa, che differenza c'è tra queste medicamenti, tra questi trattamenti fatti con i fiori e quelli che segna il dottore, quindi le medicine che si comprano in farmacia. Le medicine, chiamiamole la medicina tradizionale, lavora sui sintomi, quindi si va a curare il male. Nella floriterapia difficilmente si lavora sui sintomi, ma si lavora sulle cause. Quindi lo stato emotivo, a cosa è dovuto e da che cosa è stato causato, per poter aiutare la persona a stare meglio. Quindi la differenza, perché spesso si paragonano i fiori ai medicinali psicoterapici, lavorando sulle emozioni. Il medicinale psicoterapico va a attenuare quello che te provi, quindi se provi ansia ti leva l'ansia. Il floriterapico invece non va a toglierti l'ansia in sé per sé, ma va a lavorare sulle cause che generano l'ansia. Quindi facendo questo mix di fiori te trovi più sicurezza in te, riesci a analizzare meglio la situazione, per cui non provi più ansia. Ecco, la differenza principale è questa. Ma fammi capire con un esempio pratico, tipo una causa di uno di questi malesseri e un tipo di fiori da prendere. Le cause di solito con cui la maggior parte delle persone viene da me sono stressato, sono stanco, non dormo la notte e ho l'ansia, e l'ansia vuol dire tutto e non vuol dire niente. Quello che viene fatto all'interno di una consulenza con un floriterapeuta è capire a che cosa è legata l'ansia o comunque legata all'insonnia. Quindi facciamo per esempio un esempio molto semplice, capibile a tutti, è: non riesco a dormire perché quando la sera mi sento di dormire comincia a frullarmi la testa e ho dei pensieri ricorrenti. Fiore adatto in questo caso è il white chestnut. Il white chestnut lavora appunto sul rimuginio. Cosa fa? Non è che fa smetterti di rimuginare, ma fa sì che tu capisca che quando è l'ora di dormire i pensieri vanno in qualche modo spenti. Oppure, tipico fiore, ho l'ansia perché il lunedì mattina devo andare a lavorare e io non ce la faccio ad alzarmi dal letto. In questo caso c'è l'Orbim, che è il fiore appunto per il lunedì mattina, è chiamato appunto il fiore del lunedì mattina. Quindi per chi non ce la fa in quel momento ad alzare, a cominciare la giornata, ma poi una volta che si alza ce la fa e comincia la giornata, l'Orbin ti dà quella forza per fare sì che tu lunedì mattina non ti alzi magari felice di andare a lavorare, ma tu ce la faccia ad alzarti senza sentire l'ansia o un peso. Questi sono gli esempi tipici. Poi è chiaro, all'interno di una consulenza si vanno a sviscerare le varie cose e a capire meglio che cosa c'è dentro, perché magari uno potrebbe essere una mamma che ha l'ansia perché i bambini vanno a scuola, allora c'è il fiore adatto per la paura dei propri cari, il red chestnut, eccetera eccetera. Ma questi trattamenti per funzionare serve un po' quello che sosteneva Terzani, e cioè serve crederci e allora in un certo senso si attivano? Ovviamente chi viene da te probabilmente ha una sensibilità già diversa dagli increduli come me, ma a qualcuno che non crede, che è diffidente verso questo tipo di trattamenti, funzionano anche su queste persone oppure perdono di efficacia? I fiori funzionano su tutti. L'esempio tipico sono gli animali, che loro non sanno che cosa prendono, eppure sono i primi ad avere dei benefici con la floriterapia perché non hanno preconcetti o pregiudizi su ciò che stanno prendendo. È chiaro che una persona scettica, e ti assicuro che di scettici e di increduli me ne vengono tanti, soprattutto mariti mandati dalle mogli che vengono lì perché la moglie l'ha mandato, ma pensano che sia una cavolata. Però il problema fondamentale è quanto di loro riescono a raccontarti. Quindi la floriterapia funziona, però se la persona non riesce a esprimere o a dire realmente l'emozione che c'è dietro al suo malessere, allora funzionano meno, nel senso c'è da lavorarci di più. Magari una persona che è predisposta, aperta e che nella prima seduta ti racconta tutto quello che sente, lavorano prima. Una persona che magari ti racconta solo piccole briciole, sta alla bravura del terapeuta riuscire a trovare i fiori giusti, ma non è detto che alla prima occasione si riesca a risolvere tutti i problemi, ecco. Quindi gran parte del tuo lavoro, più che prescrivere il tipo di fiori giusti, è parlare con le persone che vengono da te, cercare di farle aprire e di capire qual è quel problema che li turba e a quel punto capire che tipo di fiori o che tipo di mix di fiori, probabilmente se ne prende anche più di una insieme, servono per aiutare questa persona a superare quel problema. Esatto, sì, è un, passatemi il termine, è un mix fra una seduta psicoterapica o di counseling, nel quale io cerco di capire attraverso varie tecniche i problemi e solo alla fine rivedo la persona, perché ci si deve ritrovare nei fiori che prende, la mia scelta di fiori, quindi il mio mix per questa persona. E di solito sì, sono più di uno, possono essere al massimo 7, perché poi l'energia dei fiori, di troppi fiori, andrebbe, diciamo così, a annullarsi, quindi non servirebbero a niente. Un'ultimissima curiosità, e cioè, ci sono delle credenze che fanno sì che certe boccette, anche solo d'acqua, però lavorate per via meditativa da parte di colui che fa da medium o da tramite tra le energie invisibili e poi quelle visibili, prendono efficacia proprio perché c'è questo tipo di meditazione. Il lavoro energetico dei fiori di Bach e delle boccette che poi alla fine si prescrivono e si prendono passano anche da un trattamento di questo tipo, cioè di natura meditativa da parte di un qualcuno che li produce, oppure semplicemente basta estrarre queste sostanze per averle pronte da prendere? Non c'è nessun tipo di lavoro energetico, quindi non è che viene trasmesso qualcosa alle essenze. Le essenze devono essere estratte secondo le regole o il metodo originale lasciato dal dottor Bach, per cui alcuni fiori devono essere bolliti, altri devono stare sotto il sole per 8 ore e poi vengano, diciamo, quest'acqua energizzata dei poteri dei fiori viene messa sotto brandy e viene conservata dalle varie case che lo producono. È chiaro che chi ha esperienze o capacità di altro tipo di lavoro può aumentare la forza del fiore energizzandolo, anche o meditando con Reiki o con qualsiasi altra attività, però di per sé, se uno va dall'erborista e si fa dare i fiorellini, funzionano esattamente allo stesso modo. Pertanto, problemi più o meno ce li abbiamo tutti e i fiori di Bach probabilmente a molti farebbero bene, probabilmente, e a molti sarebbero di aiuto. E in particolare quello che abbiamo capito grazie a te, Elisa, oggi è che è troppo semplicistico dire ma sì, so boccette d'alcol e zucchero e poi è effetto placebo, perché effettivamente dietro a quelle boccette, che sono composte in gran parte di alcol e di oli essenziali, c'è in realtà un mondo anche non visibile, e è proprio attraverso la coniugazione di questi due elementi, cioè il fisico e il non fisico, che funzionano. O ho capito male? No, hai capito benissimo, nel senso che il lavoro è molto molto sottile, si tratta di energie che entrano in contatto con il nostro corpo, e essendo energie che ci fanno bene, essendo campi elettromagnetici a noi, per noi buoni, per noi esseri viventi, per noi piante, per noi animali, cioè i fiori funzionano su qualsiasi essere vivente, quindi dall'essere umano a qualsiasi tipo di pianta, lavorano portando con sé le energie positive che fanno sì che si modifichi dopo un tot di giorni, perché non è che ne prendi una gocciolina e tutto ti passa, il tuo comportamento, e che quindi tu traga dei benefici. È una cosa molto sottile fra l'essere fisico, quindi l'estrazione del fiore, e l'energia un pochino più sottile. rimango scettico perché sono San Tommaso e non ci credo finché non ci ho messo il naso, però un'idea sarebbe magari farsi una chiacchierata, vedere se esiste una soluzione viabile ai miei problemi, che sono molti, molto complessi e probabilmente di difficilissima soluzione, e pur restando nello spirito di quei mariti che vengono da te mandati dalle mogli, ti ringrazio Elisa di essere stata con noi, di averci piano piano aperto un mondo che è sotto gli occhi di tutti ma ai più è sconosciuto. Ringraziamo naturalmente gli ascoltatori di Radio Big World che ci hanno seguito fino a qui e procediamo con Elisa e con Giorgio l'incredulo verso la comprensione di nuovi e più stuzzicanti e difficilissimi da credere temi. Grazie. Grazie a te Giorgio, è sempre un piacere avere a che fare con gli scettici, io ti aspetto per una bellissima chiacchierata nel mio studio e vediamo se riesco a risolverti i problemi, e invece ringrazio gli ascoltatori e ci vediamo alla prossima puntata.